Bibbia Martini, primo libro dei Re 17 Elia chiude il cielo per 3 anni, ed è nudrito prima dai corvi, indi da una donna di Sarefta, la pentola della farina, e il vaso dell'olio di questa donna non vengono meno, e il suo figliuolo è risuscitato in virtù delle preghiere di Elia. Ma Elia Tesbite abitante di Galad, disse ad Ashab, viva il Signore Dio di Israele, di cui io san servo, non verrà né rugiada, né pioggia in questi anni, se non quando io lo dirò. E il Signore parlò a lui, e gli disse, partiti di qua, e va verso oriente, e nasconditi presso al torrente Carit, che è dirimpetto al Giordano. E ivi berai al torrente, e io ho comandato ai corvi, che ti dian da mangiare. Egli adunque partì, ed eseguì l'ordine del Signore, e andò a posarsi presso al torrente Carit, che è dirimpetto al Giordano. E i corvi gli portavan del pane, e delle carni la mattina, e parimente del pane, e delle carni la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non veniva pioggia sopra la terra. Il Signore pertanto parlò a lui, e disse parti, e va a Sarefta de Sidon, e ivi fa tua dimora, perocché ivi ho ordinato a una donna vedova, che ti dia da mangiare. Si partì egli, e andò a Sarefta. E nell'arrivar che ei faceva alla porta della città, si vide dinanzi una donna vedova, che raccoglieva delle legna, e chiamolla, e le disse, dammi un po' d'acqua in un vaso, affinché io beva. E mentre ella andava per portargliene, le gridò dietro, e disse, portami di grazia anche un tocco di pane con la tua mano. Rispose ella, viva il Signore Dio tuo, del pane io non ne ho, ma solo un po' di farina in una pentola, quanto può capirne in una pugnata e un poccolino d'olio in un vaso, or io raccoglieva 2 legna, per andare a cuocerla per me, e per il mio figliuolo, a fin di mangiarla, e poi morire. Disse Elia, non temere, ma va, e fa quello, che hai detto, ma fa prima per me con quel po' di farina una stiacciata cotta sotto la cenere, e portamela, e poi ne farai per te, e pel tuo figliuolo. Or il Signore Dio d'Israele dice così, la farina della pentola non verrà a meno, e il vaso dell'olio non calerà sino a quel giorno, in cui il Signore manderà pioggia sopra la terra. E quella andò, e fece come le aveva detto Elia, e mangiò egli, ed essa, e la sua gente. E da quel giorno in poi la farina della pentola non venne meno, e il vaso dell'olio non calò, secondo la parola detta dal Signore per bocca di Elia. Or di poi egli avvenne, che si ammalò il figliuolo di questa madre di famiglia, e la malattia era gravissima, talmente che rimase senza respiro. Ella pertanto disse ad Elia, che ho io fatto a te, o uomo di Dio? Se tu venuto da me, per rinnovar la memoria delle mie iniquità, e per far morire il mio figliuolo? E disse Elia, dammi il tuo figlio, e lo prese dal sen di lei, e portollo nella camera, dove egli albergava, e lo posò sul suo letto. E alzò sue voci al Signore, e disse, Signore Dio mio, hai tu dunque afflitta ancor questa vedova, in casa della quale io vivo alla meglio, facendo morire il suo figliuolo? Essi distese, essi rannicchiò sopra il fanciullo per 3 volte, e alzò sue voci al Signore, e disse, Signore Dio mio fa, ti prego, che l'anima del fanciullo torni nelle sue viscere. E il Signore esaudì la voce di Elia, e l'anima del fanciullo tornò in lui, ed egli risuscitò. Ed Elia prese il fanciullo, e dalla sua camera lo trasportò al piano di terra della casa, e lo rimise a sua madre, e dissele, eccoti vivo il tuo figliuolo. E la donna disse ad Elia, or da questo conosco, che tu sei uomo di Dio, e che la vera parola di Dio è nella tua bocca. Note, 17,12. Ma Elia Tesbite. Disse ad Ashab. Non sappiamo né il nome del padre, né veruna particolarità della famiglia di Elia. Egli era di Resbe, città della tribù di Gad di là dal Giordano, ed era non solo adoratore, ma anche profeta del vero Dio in mezzo agli scandali e alle impietà che inondavano il regno delle dieci tribù. E Dio gli aveva dato un animo grande e uno gelo ardente, e secondo il comune sentimento dei padri osservò perpetua verginità. E tu come superiore e il maestro dei profeti, che vissero là quel tempo nello stesso paese, il suo nome in ebreo significa il Dio forte, ovvero il Signore Dio, di cui io san servo. Tale è il senso di quella frase ebrea in cui os conspectus sto, come si raccoglie da altri luoghi delle scritture. Vedi numero 3. 6. Deut. 17. 12. 18. 5. Gerem. 15. 19. Non verrà né Rugiadaic. Queste parole sono la conclusione di un discorso fatto da Elia ad Ashab per ritrarlo dall'empio culto di Baal, ma vedendolo ostinato nel male gli predice con giuramento una siccità, che durerà 3 anni e mezzo, se lo stesso profeta non farà col suo comando venir prima la pioggia. 17,42. Ho comandato a corvi, che ti din da mangiare. Il corvo è un uccello vorace, maligno, niente amico degli uomini, con tutto ciò Dio, che sa far servire a suoi fini anche i muti animali, promette ad Elia, che i corvi gli porteranno da mangiare, così nella vita di esse. Paolo primo eremita, scritta da esse. Girolamo, si racconta, che un corvo portava ogni giorno a quel santo un pezzo pane. 17,92. Va apostrofo a Sarefta de Sidonii. Perocché vi ha ordinato ic. Saref città di mezzo tra Tiro e Sidone. Il Signore dice ad Elia, che vada a quella città di gentili, perocché ha disposto, che ivi sia egli sostentuta da una vedova gentile, che era anche poverissima, come fino allora era stato sostentato da animali tenuti per impuri tra gli ebrei, e i quali appena trovano tanto, che basti a saziare la loro ingordigia. 17,13. Fa apostrofo prima per me. Una stiacciata ec. Il profeta era affamato e stanco dal viaggio, e aveva bisogno di essere ristorato il primo, non può negarsi però, che Elia non mettesse a una gran prova la virtù e la bontà della donna, ma Dio le dà ie allora la fede per credere alle parole del profeta, onde con meravigliosa docilità si privò di quel poco che aveva, per efocillare il profeta. Quindi con ragione è celebrata altamente da padri la carità e la ospitalità di questa donna. Vedi Ierone p. 10. Ad Furiam, Euker. Prosper. 17,18. Che ho io fatto a te, o uomo di Dio? Ecco la riflessione di Teodoroto, sono degne di ammirazione le parole di questa vedova. Ella dice, la luce della tua santità mette in vista i peccati miei, che erano occulti. Ella non dice, tu sei stato di cattivo augurio per me, la tua venuta mi ha portato sciagure, ma i propri peccati assegna per cagione di quello che è avvenuto. Tanto giurarono a lei gli insegnamenti del profeta. Ella si duole per umiltà di aver ricevuto indegnamente in sua casa un profeta. 17,12. E si distese e si rannicchiò sopra il fanciullo per 3 volte, ec. In tutte questa era significato un gran mistero notato dai padri, e particolarmente da esse. Agostino, Serm. 201. De temp, con queste parole, il figliuolo della vedova giocava morto, come il popolo della nazione era senza vita per i molti peccati. All'orazione di Elia risuscita il figliuolo della vedova, alla venuta di Cristo il popolo cristiano è tratto dal carcere e dalla morte, Elia si rannicchia pregando, ed è ravvivato il figliuolo dalla vedova, Cristo si prostra nella passione, e il popolo cristiano riceve la vita. Ma nel rannicchiarsi, che fa Elia per 3 volte, è dimostrato il mistero della Trinità, Impero che è il figliuol della vedova, vale a dire il popolo cristiano, è risuscitato non dal solo padre senza il figliuolo, né dal padre e dal figliuolo senza lo Spirito Santo, ma da tutta la Trinità, la qual cosa nel sacramento del battesimo è ancor dimostrata, in cui per tre volte l'uomo vecchio sommergesi affinché il nuovo risorga. Allude Agostino in queste ultime parole al battesimo per immersione usato tuttora a suoi tempi. 17,22 Anima del fanciullo tornò in lui, ec. Espressione, che prova la spiritualità e immortalità dell'anima umana.